Lo sostituirebbe al netbook? Sì, ho comprato un netbook, però diciamo, in questo momento hanno delle prestazioni molto ridotte. Acquisterà anche la tastiera? No. Come grandezza dello schermo? 10 pollici, sì. Però per le mie esigenze magari preferirei un netbook, anche visto che i prezzi attualmente sono un po' più accessibili, insomma. Molti ci dicono che oggi è il sostituto del netbook. Io non credo. Forse un po' l'iPad 2, però secondo me è abbastanza diverso. Sono tablet e devono rimanere tali. Completamente diversa dalla concezione di un portatile. Se uno ha bisogno di fare un lavoro preciso e particolare, non arriverà mai all'altezza a livello di un PC.